Scatole vuote in giro per la mia casa, calzini sbagliati, i piatti non li ho lavati, la spazzatura che mi si è moltiplicata. Mi guardi male perché sei arrabbiata. Ma non è vero amore, non è vero. Abbiamo solo un diverso concetto di ordine. A me serve disordine, tipo scartare un ovetto e mangiare la mia sorpresa, mentre giro indeciso fra le corsie della spesa. Che non mi piace e so che non è una scusa, però scuoto la testa, una cosa già ti si è arresa. Mi fai sorridere quando sei arrabbiata, adesso resterai così tutta la strada. Dirai che sono viziato da una vita, solo perché non mi piace fare la fila. Ma non è vero amore, non è vero. Abbiamo solo un diverso concetto di ordine. A me serve disordine. Ordine. A me serve disordine. O non capisco niente del mondo e della gente. Mi serve solamente fare tutto il contrario. Faccio tutto il contrario. Ormai è chiaro che la mia condizione mentale sia data dall'inversione della notte col giorno. Ormai è chiaro che mi voglio svegliare, ma non riesco ad aprire gli occhi e rimango in un sogno. Faccio tutto il contrario. Ma non è vero amore, non è vero. Abbiamo solo un diverso concetto di ordine. A me serve disordine. Ordine. A me serve disordine.